fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Sono le 21.07 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, anche per oggi mercoledì 23 maggio del 2018. Prova tecnica di trasmissione fino a circa le 22.30. Dopodiché ci sarà 25 o'clock che andrà avanti fino alla mezzanotte e oltre. 0649 1750 il contatto telefonico. Il sito della radio è www.ondarosso.info, sia per le notizie e sia per usufruire dello streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Strettamente rispetto a questo spazio c'è una pagina Facebook che è Prova Tecnica di Trasmissione /Disorder, dove domani, oltre che sul sito, verrà pubblicata la playlist e il podcast conseguente. Quindi cominciamo con il salutare qualche amico e affezionato di questo spazio. Quindi Alessandra qui da Roma, Antonio da Firenze e Buenalupo da Lisbona in Portogallo, Raffaele Pezzella in quel di Napoli, Like Awake qui a Roma, Maya in Argentina e pian pianino anche gli altri, quelli che eventualmente si aggiungeranno. Un saluto anche a Mauro, al quale confermo che sono rimpatriato dopo una breve vacanza teutonica, e quindi saluto anche lui, anche qui a Roma. Ci siamo concessi un festival dal nome Wave Gothic Treffen. Per chi ama i suoni oscuri goth industriali elettronici, è una tappa abbastanza importante. Bene, quindi si va ad iniziare e lo facciamo con andarci ad ascoltare, e in parte anche un doveroso omaggio, un artista scomparso, un disco di un gruppo importante dal nome Tuxedo Moon, che in questi spazi abbiamo spesso sottovalutato. E dato che purtroppo il bassista Peter Principal è morto da poco tempo, abbiamo pensato di andare un po' a rinfrescarci la memoria. L'album in questione forse è uno che credo tra gli album più trascurati, si chiama Divine ed era una colonna sonora di un balletto che si svolse credo a Parigi proprio in quegli anni. Era un balletto ad opera del coreografo Maurice Béjart, e appunto nel 1982 i Tuxedo Moon operarono a questa colonna sonora, un disco abbastanza diverso anche rispetto ai dischi dei primi anni 80 di Tuxedo Moon, un disco con un approccio anche leggermente più sperimentale, un disco che si apriva con Entract, Mata Hari e Anna Christie. Ancora Dax Ramunda, Divine, intanto salutiamo Buena Lupo che è da Porto e non da Lisbona, altra bella città. Ancora Dax Ramunda, questo Divine, eccola qua la terza traccia, Anna Cristi. Con molto piacere dunque ho ritirato fuori questo Divine dei Tuxedomoon. Tuxedomoon che secondo me hanno dato il meglio nei primi 4-5 dischi, diciamo in generale tutta la produzione degli anni 80. Fecero qualcosa negli anni 90, per esempio Cambia on the Sky, che fu secondo me un mezzo passo falso, poi stettero fermi per molti anni, ricominciarono ma sempre con fasi alterne ad essere buoni effettivamente. Comunque ottimi musicisti. Recentemente abbiamo visto Blair Ninger qui al Cinema Palazzo in San Lorenzo in un set solista. Qui c'era la formazione storica, quella forse la migliore che abbiano avuto, con Steven Brown, sassofoni, tastiere, voce, clarinetto, appunto Blaine Reninger agli archi e alle tastiere, Peter Principal, il grande bassista Peter Principal, basso, chitarra, percussioni, tastiere e voce anche lui, Winston Tong alla voce. Successivamente anche Bruce Gedwilding entrò nella formazione. Anche lui purtroppo scomparso. Insomma, Tuxedomoon da questo Divine con questi umori jazz, con elettronica e la new wave di allora. Un benvenuto anche a Riccardo da Taranto, anche lui affezionato ascoltatore di Diaspora Psichica, suo progetto interessante di Ambient. Un grosso calibro ci lascia, ma andiamo altrettanto ad ascoltarci un altro grosso artista, Tony Wakeford, con i suoi Sol Invictus. Un Tony Wakeford che ho visto al Wave Gothic Treffen come basso nei Crisis, i Crisis arricchiti anche dalla voce di Lo James dei Nevus, bel concerto anche quello. I Crisis, molti sapranno, sorta di punk stile 77. Ci ha deliziato anche con un paio di cover dei Death in June. Tornando a Necropolis, The Sol Invictus, questa sera ci ascoltiamo dal secondo CD che ha una succosa parte live, ma anche dei sostanziosi, ovviamente, brani in studio, ossia Mortlake, The Garden Love e anche Mortlake, Lucifer, Before Sunrise. I'm still Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer. Ancora sono Invictus e anche un abbraccio al nostro Gabriele che da anni ci chiama e con il quale ogni tanto si chiacchiera, soprattutto sulla Power Electronics, sull'Industrial Noise. Un saluto a lui e al buon Gabriele. Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Lucifer, Si andava a chiudere in questo modo, dunque, questo Necropolis, doppio CD per Sol Invictus di Tony Wakeford. Rimangono le tracce del vecchio neofolk, indubbiamente, ma le evoluzioni orchestrali che negli anni si sono succedute nel concetto musica di Sol Invictus hanno sempre più arricchito un nome e un'idea che non conosce cadute di stile e flessioni importanti. Andiamo avanti nel salutare Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Andiamo dunque anche questa sera da visitare i paesi balcanici dal punto di vista della sperimentazione. An Express Sounds, The Balkan Perspective, or dunque. Questa sera è il turno di La Plimbare con Intampalator. Ovviamente non sappiamo praticamente nulla di questi nomi, ma ci piace anche scoprire queste realtà così sotterranee. Ecco dunque La Plimbare con Intampalator. la cupa dark ambient dell'inizio di questa traccia, di questa Intampalator di La Plimbare, e questo finale invece più, forse più rilassato per questo artista proveniente semplicemente, sappiamo, dalla penisola balcanica, non sappiamo esattamente la provenienza precisa geograficamente parlando di questo artista. Il prossimo che ci andiamo ad ascoltare, sempre dalla medesima compilation di Unexpressed Sounds, è Life Cutter con questa Loss of Consciousness. E se La Plimbare potevano anche ricordare effettivamente, per esempio, i Biosphere di Gary Jensen, come ci dice giustamente Antonio, questi Life Cutter si muovono su un crinale più vicino a certi loop psicotici e granitici, tipici per esempio proprio dei Genocide Organ. La scuola credo sia più o meno quella, la vecchia scuola industrial. E questi Life Cutter balcanici hanno ripreso effettivamente quel messaggio sonoro. Intanto sono le 21.41 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, queste prove tecniche di trasmissione in onda sino alle 22.30 circa. Adesso andiamo nei paesi del nord più estremo, andiamo in Svezia e lo facciamo con i Slaughter Natives. Personalmente, forse per distrazione, avevo non menzionato due lavori del 2016, passati un po' sotto silenzio, però, in generale. Questo si chiama Ventre, che viene definito come un album gestito a metà da un tale Nihil 23. In realtà poi l'album è tutto suonato dai Slaughter Natives. E quindi si potranno apprezzare le classiche sonorità di questo artista, così vicino a certo industrial sinfonico apocalittico e marziale. Isolation e 113 Scar, le prime due tracce di questo Ventre, che esce per la Cyclic Low nel 2016. Thank you. credo di dire con sicurezza, di affermare con sicurezza che In Slaughter Natives rappresenta uno dei personaggi e degli artisti più interessanti per quanto riguarda il sinfonico, il martial, a tratti anche il death ambient. Juni Avukainen, proveniente dalla Svezia, anche lui appartenente in passato alla grande famiglia della Cold Meat Industry, e anche lui, come molti di questi ex artisti della Cold Meat, sono approdati alla Cyclic Low, label canadese, di origine canadese. Una grande scuola questa scandinava, dai già famosi Slaughter Natives fino ai fenomeni più, diciamo, recenti, come per esempio Trepanering's Ritualen, anch'egli visto al Wave Gothic Treffen, ancora più brutale se vogliamo, anche come presenza scenica di In Slaughter Natives. Questo era un album del 2016, praticamente il penultimo, dal nome Ventre. Sono già 30 anni che Juni Avukainen calca le scene, infatti il primo lavoro fu del 1988, addirittura proprio con lo stesso suo nome, In Slaughter Natives. E adesso andiamo con la prima artista italiana, Emiliana Voltarel, in arte Braconide. Ricordiamo, siamo nel campo degli insetti. Ed è uscito questo 4 tracce dal nome Magnetic Real attraverso la Swiss Dark Knights, un'etichetta svizzera, parallela alla Lucesia di Sasha Rovelli e di Valerio Lovecchio. In attesa del primo lavoro alla lunga distanza di Braconide, ci ascoltiamo 2 tracce da questo mini, dal nome Balletante Paraponena Clavata e Four Scrapes. Balletante vede anche la collaborazione di Disordine, vecchia realtà italiana, mentre Scrapes c'è la collaborazione di Esker Air Project, che invece è un progetto, se non erro, tedesco.